nostro malgrado, gradi 360 dei colori accesi, acqua potabile, volendolo permettere a noi stessi, con zero sconti, senza permessi, 65 più 300 giorni all'anno è l'anno domini, per noi ossessi, o nati e morti dentro a ricordare quel di chiodo e chiodo, batte chiodo, allora batta il tempo di questa biorivoluzione, questa mia canzone, la nazione avverta che l'azione è appena cominciata, è un algoritmo, il risultato segue il ritmo di questo urlante di spalle costante, è variabile lo status quo sostituibile, è variabile lo status quo sostituibile, prende una persona misera col suo pugnale, non offenderebbe mortalmente neanche un animale piccolo, ma ora considerane 100 per 300 per 3500, sento che i secondi tornano, i marchesi affondano, e come un domino le pine cadono, cadendo spingono, spingendo affondano, questo è un processo che avviato porta ad un arresto necessario, solo al punto a capo, ma più ritorno al tragico.